Questa è la storia di Rocco, Rocco Giovannoni il bullo della scuola media, che fece il botto con la moto, impennando sull'Aurelia. E Rocco si è rotto tutti i denti davanti, ma sorride più di prima, mentre mi pugnala ai fianchi, con la punta della matita, quando eravamo in gita, sul pullman a due piani, sedevo accanto a Rita, che regalava baci, entrando in galleria, col buio tutto intorno, io la sentivo mia, aprivo gli occhi, aveva già cambiato posto ed era accanto a Rocco, figlio di due spacciatori, Rocco Giovannoni il granchio, l'incubo dei professori, e me lo misero a me come compagno di banco. Questa è la storia di... Questa è la storia di Rocco. Questa è la storia di Rocco, Rocco Giovannoni il bullo della scuola media, che precipitò nel vuoto, dondolando sulla sedia. E Rocco ha rotto il vetro della macchinetta per prendere le patatine, erano il fiore dell'adolescenza e mi copriva di spine. Quando eravamo in prima, ricordo una supplente, veniva la taormina, così cattiva che interrogava sempre. Quando scoppiò l'incendio, uscimmo tutti fuori, ci fecero l'appello, mancava solo Rocco Giovannoni. Chissà che fine ha fatto, figlio di due spacciatori, Rocco Giovannoni il granchio, l'incubo dei professori, e me lo misero a me come compagno di banco. Questa è la storia di... Questa è la storia di Rocco, il più vecchio della prima, aveva 12 anni ma fumava già, passava tutta l'ora di ginnastica, nei buchi delle serrature in cerca di ragazze nude. Rock, everybody let's rock. I'm a baby doll.